Qui si balla. Come ancora non so ballare il Charleston e neppure lo shimmy, un caritatevole amico mi ha condotto a scuola, voglio dire una scuola da ballo, vero politecnico di quest'arte, il cui rettore è una persona a modo, che conosce 7 lingue e non ha neppure una condanna in casellario. Per ballare bene tutto dipende dalle gambe. Le gambe bastano a tutto. E partire dal piede destro. Questo lo sapevo. Sapere nel ballo non conta. Fare è difficile. Un pianino attacca a Valencia. Comincia per la sala un dimenio di gambe imbrogliate e qualcuno mi spinge là, in mezzo. Non alzare le spalle, non agitare le braccia, le gambe bastano a tutto. E via, diritti, diritti! Far conto che la strada sia segnata col gesso. Franchi, decisi, là, capito? 1, 2, 3, esito, inciampo, non so fare e mi rimettono alla sbarra. Per dare riposo al maestro montano un fonografo. Il fonografo ha la stessa voce nasale, corrucciata dell'insegnante. Questi è addiratissimo, con me immagino. Ho l'impressione di essere sgridato da tutte le parti. Allora, una donna bellissima si fa innanzi e mi prende tra le braccia. Non è che la giunta maestra di ballo. Ah, tristezza! La cosa più mortificante per un uomo è d'essere preso in braccio da una donna, per altra cagione che non sia d'amore. Ah, qui non la tremante soggezione di colei che s'abbandona, ma il finto, ironico trasporto di chi, insegnando l'1, 2, 3, deve portare alla nostra imperizia di fantocci impacciati la sua agile, ridente pietà soccorritrice. Sento l'alterigia magistrale e nello stesso tempo il tenero seno di lei pesare su me, allibito, stranito, compunto. Quel seno adesso è un insulto. Preferirei ballare con un manchino. Tra queste braccia sento qualche cosa che insieme mi proietta e mi trattiene, come quando, ecco, montai per la prima volta in bicicletta. Che accade? Sì, come il ciclista che scarta a dritta e a manca, che vuole accelerare e non può, che vuole frenare e non può. Non sono io sopra una lunga, lunga strada in discesa con un precipizio nel fondo. 1, 2, 3. Ora il fonografo canta «Andiamo tutti a Barcellona» e il braccio nudo del signor professore scaglia non so che ordini o maledizioni alla mia volta. Non so più niente, non vedo più niente. I piedi vanno dove possono, me li sento di piombo, morti e attaccati a un filo come quelli dei burattini. Ne oso quasi toccare la mia dama che pure m'avvinghia e mi trascina. Non oso come dovrei secondarla, ciò che vorrebbe dire spingere, premere, palpare qualche cosa. Tutti fatti inammissibili. Sono sopra una china, un'orrenda china, di cui non vedo il fondo. La dama non mi muove più, mi sposta come una sedia, sorride, mi incoraggia, me livido, smarrito, incoraggia con la sua voce sicura, ferme le spalle, alta la testa. Intravedo appena nell'aria il pugno chiuso del professore che urla, allora mi getto nel vortice, alta la testa, e io mi butto a testa bassa come il palombaro nell'onda, quando le dolci braccia mi lasciano. Ho l'impressione di essere stato buttato via. Perché sono venuto qui? Me lo domando tastandomi, quasi non mi sentissi più intero. Potessi sparire, inghiottito da quella botola, o eclissarmi nel vuoto, saltando da quel trampolino sopra la sbarra. Perché sono venuto? Purtroppo ora sono in ballo. Un, due, tre, e devo ballare. In due luoghi soltanto mi è accaduto di tremare così: alla scuola di danza e nel gabinetto del dentista. Richiamato alla sbarra dalla maestra implacabile, col sorriso della massaia natalizia che ha scelto il pollastro nella stia, mi vedo costretto a ripetere, con le braccia inerti per i fianchi, dei movimenti quali mi ricordano la definizione spaventosa che dell'uomo mi diede una volta una signora viennese. L'uomo è una marionetta che suda. Una sola morale, una sola legge ha il mondo: non schiacciare i piedi del prossimo. Tanta è la paura che ballo con le piote in fuori come i palmipedi. Il professore torna a gridarmi che le gambe, per Dio, le gambe devono bastare a tutto. E la mia dama, cui osa alzare il ciglio per la prima volta, sta fissandomi con un disprezzo duro, convinto, subito cancellato, ma troppo tardi, da un bel sorriso di prammatica. Abbasso gli occhi, umiliato, e scopro l'onda del seno. Riguardo altrove, atterrito, sto per dire: «Pardon, signora, non l'ho fatto apposta!» Ora non so più dove guardare. Ora guardo in alto, al cielo, a Dio, quasi a domandar grazia per la nudità che ho visto, il disprezzo che ho meritato, i piedi che ho pestato e che dovrò pestare. Così va bene! Alza la testa! Va bene davvero? Ladrizzo, come dovessi svitarmela via dal busto. Però va bene per combinazione. Alta la testa, sciolti i fianchi, teso il garretto. Troppe cose, professore. Mi provo finalmente disciolto e libero a guardare in giro gli altri alunni, per cui la lezione seguita, e ho il perfido piacere di trovarli inabili, goffi, malandati, come me. E c'è ancora un fatto strano: che le donne, dovendo imparare al pari di noi una danza nuova, si fatte pene non conoscono, non sospettano neppure, e se ridono di cuore dei nostri imbarazzi, delle nostre anchilosi, dei nostri spaventi, esse che imparano in 5 minuti quanto nei maschi in 3 ore non si riesce. E neanche quando sbagliano sono le donne come noi ridicole. È il privilegio delle gambe tornite di restar carine anche imbrogliandosi? O è un diavolo che le assiste, permettendo che abbiano del garbo anche negli spropositi? Quando esse si scompongono, è come slegare, disordinare un mazzolino. I fiori restano fiori. Vi sono fanciulle che trovano un marito, mi ha detto una volta il professore, anche ballando malissimo il foxtrot. Il professore me l'hanno presentato a fin di lezione. Non è stato molto sorpreso della mia qualità d'uomo pensante. Finalmente ci fate un po' di giustizia in letteratura. Fino a 2 anni fa, a sentire voi altri, non eravamo che dei cialtroni. Mi presentano altri 2 professori, l'uno specialista in tango, l'altro in Charleston e Black Bottom. L'uno una volta faceva l'acrobata in piazza, l'altro è tuttora scultore. Dalla bocca del professore laureato le parole cadono ad una, ben staccate e sonore, quasi monete d'elemosina in un bacile. Mi tendo, mutolo, al dogma. In un angolo della sala, sotto la bocca spalancata del grammofono, la donna che mi reggeva tra le braccia ha finito di sbucciare un'arancia e, mordendovi, mentre il sugo le schizza gli occhi, mi guarda ad un modo che le pupille rimpicciolite fanno ancora più ingiuriose. Come si guardano i beneficati?